I'm a mama, mama. I'm a papa, papa. I'm a mama, mama. I'm a papa. Papa, I'm a mama, mama. I'm a papa. Nelle belle giornate di sole, il papà porta a spasso mamma, lungo gli argini pieni di viole, sulle guance un bacetto le dà. Papà ama mamma, mamma ama papà. Papà ama mamma, mamma ama papà. Lei non è molto brava col forno e l'arrosto fa spesso bruciar, ma papà trova buono il contorno e contento si mette a mangiar. Papà ama mamma, mamma ama papà. Papà ama mamma, mamma ama papà. Dicembre arrivò la cicogna e sul tetto un cestino posò, tra un profumo di mela cotogna a papà un bebè regalò. Papà ama mamma, mamma ama papà. Papà ama mamma, mamma ama papà. La la.